Allora, ci siamo. Sempre i soliti proprio. Siamo super gasati. Siamo noi. Sono le ore 20, ben trovati su Radio Cerrano Web con il Master Booty Show. Con il nostro amico Adriano Master Booty da Rimini, musicista. Adriano, che oltre a essere un grande musicista è anche un grande amico, un grandissimo amico. Lo possiamo dire. Vabbè, possiamo dire che abbiamo battezzato noi alla radio Adriano, un pochettino siamo stati i tuoi mentori, i fratelli Micheli, vero Adriano? Sì. Mi ricordo, era il lontano 1982-83. Mamma mia, gli anni che sono passati. Sono passati tantissimi anni, ma comunque il ricordo è ancora vivo, in radio, in macchina, le musicassette, il casino. Tiriamo dentro le panze. Allora, Adriano, per chi non lo conoscesse, lasciò Atri negli anni 80 per trasferirsi a Rimini. Lì iniziò una carriera. Assolutamente no, non ti ricordi bene la cosa. Esatto. Marco, ti spiega tu. Allora, mi ricordo, Adriano, la prima volta che ho conosciuto Adriano era un piemontese quasi doc, perché il papà era a Ivrea. Lavorava in Olivetti e quindi quando tornava Adriano era una grandissima festa, soprattutto con il suo modo di parlare, un modo sicuramente diverso, ma con un'anima, diciamo così, un carattere prettamente proprio Adriano. Rock Adriano, sicuramente. E poi, dopo raccontiamo il resto. Adriano, no, non va bene. Non va bene perché tu questa sera mi hai fatto preparare una scaletta molto, molto raffinata. Noi volevamo i pomponi. Le cheese leader, Carlo, sono tutte dietro la porta, dietro l'angolo. Dopo le facciamo entrare tutte nude. Mi raccomando, spettatori. E insomma, qui hai fatto una scaletta veramente molto raffinata. All right. Allora, Adriano, tu sei stato anche al Maurizio Costanzo Show, lo vogliamo ricordare. Esatto. Chi se lo scorda poi? Esatto. Ma noi ci ricordiamo che pure in quell'evento non ti dimenticasti di noi, salutasti. Direttamente da Canale 5 del Maurizio Costanzo Show, esatto. I tuoi amici Carlo, Marco, insomma noi, il gruppo di Atri, vero? Sì, io mi ricordo benissimo pure quella puntata. Esatto. E lui se la ricorda meglio di tutti perché praticamente tu dovresti raccontare la cosa. Praticamente vengo chiamato in un settembre del 90, mi sembra. 90, mi sembra, sì, 89, sì, 90, non mi ricordo bene adesso. Mi chiama la redazione del Costanzo Show e mi dice le seguenti parole al telefono. Non esistevano telefonini, non esisteva niente. Salve la redazione, la contatta per partecipare alla trasmissione del Costanzo Show. Io ho detto, dai, non dite cazzate, cioè, uno scherzo, chi è che parla dall'altra parte? No, perché, cioè, voglio dire, normale, non è che tutti i giorni ti chiami una redazione così. Poi all'epoca molto importante la trasmissione. Sì, decisamente. E chiusi il telefono. Chiusi il telefono. Esatto, impossibile. Chiusi il telefono. Richiamò e era sempre il caporedattore del Costanzo Show, che all'epoca si chiamava Giorgio Gambino, mi ricordo ancora, il quale mi disse, guarda, non chiude il telefono perché sono Giorgio Gambino del Costanzo Show e ti volevo invitare alla trasmissione, eccetera eccetera. E allora lì, quando ho visto che poi mi mandarono gli accrediti per il biglietto aereo eccetera eccetera per andare a Roma, capì che non era uno scherzo ma era realtà, era quindi tutto vero. Quindi presi il mio aereo e andai a Roma per la prima volta al Teatro Parioli. Bene. Il resto è storia. Allora però no, aspetta un attimo, però bisogna raccontarla tutta, perché lui fece una diciamo così, una cosa particolare in quel periodo, perché bisogna raccontarla un po' tutta. Era il periodo del famoso orologio, possiamo dirlo? Assolutamente. Il famoso orologio Swatch, famoso Swatch per gli altri, perché per me non era tanto famoso visto quello che ho fatto. Sì, vabbè, diciamo l'orologio era magari così, era un po' un simbolo, eccetera. Diciamo che era ambito, era da collezione. Era sempre colorato, in plastica. Fatto in tanti modi, diversi temi, eccetera. Comunque io mi ricordo la scena quando lui prese praticamente questo orologio, lo tritò per bene, lo mise col martello, col martello, mi sembra che poi lo mettessi pure in uno shaker, col frappè, col me frappè. Lo shakerai e me lo bevi. Io non so cosa sia successo il giorno dopo, però. È successo che praticamente dal giorno dopo lo Swatch, che penso sia e penso fosse un modello da donna, un lady, logicamente la pila l'avevo tolta perché era molto pericolosa. Da quel giorno quell'orologio naviga nelle fogne di Roma. Pazzesco. Cioè pazzesco. Sarà in giro per il Tevere, non lo so. Che sì, ma io fa. Voglio capire una cosa, in poche parole. Cioè mangiare allora, un orologio è una cosa. Allora, Marco, ti spiego quello che è successo. Praticamente, io all'epoca lavoravo in un locale di Rimini che si chiamava Roccazzo. Okay? Come? Me lo ricordo perfetto. Benissimo. Perfetto. Ricordo cosa benissimo. È successo? Mi alzai una mattina e pensai, come può la gente spendere tanti soldi per un pezzo di plastica che vale se no 5 lire, all'epoca c'erano le lire. E allora andai dal direttore artistico all'epoca del locale e gli dissi: se tu mi compri 5 Swatch, io li sfascio tutti, ognuno in una modalità diversa. A questo qui gli piacque l'idea, mi compro 5 orologi. Capitò casualmente che io la sera prima fui invitato a una trasmissione del Costanzo Show e quindi portai tutti gli orologi al braccio. Costanzo vide questi orologi e mi chiese: ma perché hai tutti questi orologi al braccio? E io gli dissi: perché faccio questo, questo e questo, faccio una festa anti-Swatch. Cosa succede alla voce? Oh, faccio una festa. Carletto sta impazzendo, comunque va bene. Faccio una festa anti-Swatch perché non concepisco tutto questo spreco di soldi per un pezzo di plastica che secondo me tra qualche anno non varrà più niente. E il tempo mi ha dato ragione, anche perché ormai sono pezzi di plastica che non valgono più niente. Va bene Adriano, allora adesso partiamo con il primo brano e dopo raccontiamo la storia di Loredana Bertè, va bene? Ah, ma sapete tu, ma chi è che vi dice ste cose voi? Salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo sulla Marco diretta Pavone, di Marco Pavone, Marco, ciao Marco, Silvio, Riccardo Angela Enzo, Evi, Vince Daddy, roba seria. Sugerimos bate-papo. Vou me apaixonar, tô ficando afim. Só Deus sabe onde a noite vai dar. A gente fica à vontade, se embala e começa a dançar. A dançar, yeah, essa onda. A gente se envolve e começa a dançar. A dançar. A gente fica à vontade, se embala e começa a dançar. A dançar. Sem parar, me aperte bem, cola seu rosto no meu. Segura e firme, então começa a girar e não para. Mais uma vez, me envolva nos seus braços, quero sentir o seu calor, uma dança bem sensual. E se prepare, eu vou querer outra vez, ou não para. Vem colar em mim, se perder no som. Eu já vi que essa noite é nossa. Tudo é bom assim. Quando é natural, quando a gente se atrai no salão, a gente fica à vontade, se embala e começa a dançar. A dançar, yeah, nessa onda, a gente se envolve e começa a dançar. A dançar, a gente fica à vontade, se embala e começa a dançar. A dançar, yeah. Começa a dançar. lá, dei um tchau daqui. Sugerimos um bate-papo. Vou me apaixonar, tô ficando afim. Só Deus sabe onde a noite vai dar. A gente fica à vontade, se embala e começa a dançar. A dançar, yeah. Allora, siamo tornati ai microfoni, abbiamo ascoltato Ivete Sangalo, Avantage, dal Brasil. Bellissima musica, estate, poi lei è bravissima. Poi qui respiri un'aria brasiliana particolare, perché noi abbiamo sopra di noi. E chiamale subito giù. Stanno preparando tutte in costume di carnevale, quindi adesso arriveranno e sarà una serata sprizzante. Muy Brasil, cosa volevi sapere? Allora, raccontaci la storia di Loredana Bertè, del letto, del mitico letto. Allora, Loredana Bertè, ti piazzasti sotto casa, dai, su. Loredana Bertè, della quale sono ancora un estimatore, perché secondo me è bravissima, nonostante sia un po', diciamo, ingrassatella, è un po' naif, diciamo, ultimamente. Io all'epoca, ai tempi d'oro, all'epoca che stava con Borg. No. Borg. Andai a Milano. Uè. E precisamente sotto casa trovai l'indirizzo. E sai chi mi accompagnò? Mio caro Marg, mio caro Carlo. No. Un altro nostro caro amico in comune, il signor Mirko Pavone. Uè, Mirko Pavone, come no, grande Mirko. Mi portò praticamente all'indirizzo, che adesso non è il caso di dire perché magari abita ancora lì. Certo, io suonai al citofono, era alle 10 di mattina di una domenica, mi ricordo. Mi rispose la sua cameriera e io chiesi di parlare con Loredana. Lei mi rispose, ma Loredana non c'è. Allora ha detto, e io gli dissi, quando è che posso trovarla? Nel pomeriggio. Va bene, ripasso. Ripassai nel pomeriggio, suonai il citofono e rispose lei. E io non ci potevo credere. Ma che vuoi, Motè? Che vuoi? Che vieni da Rimini qua, che vuoi? E io ho detto, ascolta Loredana, mi son fatto... Ti voglio dare una bussata. No, quello lì no. Mi son fatto... 200-300 chilometri solo per conoscerti. Perché no. Sono un tuo estimatore, sono un tuo fan e praticamente... Lei mi rispose al citofono prima di aprirmi, scusa, ma perché vuoi che io ti riceva? Non sono mica il Papa. Questo mi ricorda ancora le parole. E io logicamente, essendo schiavo della battuta, le risposi, se permetti, sei meglio del Papa. Giusto. Non ho capito. E a quel punto mi aprì e andai nel cortile, la incontrai, feci due foto, parlammo un pochettino, la baciai. No. Esatto, c'ho anche la foto a casa. E dopodiché finì lì la mia... Credo che sia stata un'esperienza unica, perché voglio dire, sì, insomma, bussare in una, esatto, porta, secondo me ho detto, questo non mi apre, oppure chiama la polizia, mi fa cacciare via. Però invece è stata grande. Così. E fui contento, poi me ne tornai a casa e fine del discorso. Realizzai un piccolo sogno dell'epoca, di tanti anni fa, di conoscere la Bertè, di andare a casa sua, eccetera eccetera. Ma a voi, chi vi aveva detto questa cosa qua? Adriano, si sapeva, l'abbiamo saputo, perché questo... nonostante che tu manchi, però sai bene mi che manchi. Atri è un paese, sai, un po', capito, un spettegolezzo, c'è un filo e tessere, come si dice, anzi, come direbbe qualcuno, c'è una singer che, singer, voglio dire, va a cucire, taglia e cuce, come le lingue delle persone. Ci troviamo ad Atri, benvenuti ad Atri. Atri, mio paese della nativo. Singer. Allora, 20 e 16 minuti primi, siete... stazionati su Radio Cerrano Web, potete ascoltarci anche dal nostro sito www.radiocerrano.net, però siamo su anche su TuneIn, Radio Garden, Radio Net. Federico Di Fabio guarda la trasmissione, lo salutiamo. Federico, ciao Federico, grandissimo conduttore sportivo di Radio Cerrano che ha ottenuto un grandissimo successo. Lo salutiamo Federico, ciao Federico. Seguendo ciao Federico. Federico, ciao, ciao Fede, ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Abbiamo fatto la notte bianca a Pineto, grande successo. Sì, e sì, insomma facciamo delle cose abbastanza interessanti, ci occupiamo soprattutto del territorio del Cerrano. Molto bene. E quindi tu non ci sei, però noi andiamo avanti. Dopo 25 anni ci siamo riposizionati sulla radio e siamo contentissimi che ci sei venuto a trovare. E adesso ci però sono anche le maracas qui, guarda. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. E adesso, adesso ci ascoltiamo James Brown. Oh, get up! Virala. Sto pezzo mi sembra di conoscerlo. Allora Adriano, chiaramente dopo una parte esuberante è arrivata anche, diciamo così, una ciao Emidio, ciao Patrizia, ciao ragazzi. Volevo, se era possibile, salutare alcuni miei amici, quindi saluto Umberto, saluto Federica, saluto Dora e tanti altri. Federica Libertini che, esatto, che ci sta ascoltando dalla Sicilia, da Catania, se non erro. Yo. Ed altri amici che adesso pian piano andiamo a ritrovare. Allora Adriano, adesso parlaci un pochettino del tuo cambiamento, insomma, da... Sì, guardi, sono andato a Casablanca, ho fatto l'operazione, tutto a posto, è uscito bene, guarda, tagliettino, uscito bene, tagliettino è andato via giù, un tutto attimo, a posto, seccato, la mano così, poi abbiamo fatto due tettoni, abbiamo fatto siamo venuti fuori, dai, siamo venuti fuori, Casablanca, 20.000 euro, tutto lì, ma un minutino, guarda, basta un minuto, ma proprio poco, dai. No, allora niente, adesso facciamo un pochettino in serie perché sennò qua è un casino, capito? Cosa volete sapere? Allora, praticamente nel 2016, nel 2016 ho prodotto il mio primo album, vero, suonato, uscito con l'etichetta Irma Records di Bologna, tra l'altro saluto anche Umbi Damiani, nel caso ci stia ascoltando. Ciao. Il boss della Irma Record. E il disco è andato bene, si chiama 02550, e è un disco dove ho racchiuso in 11 pezzi 25 anni di carriera di quello che ho assimilato nel campo della musica, tutto qua, l'ho racchiuso in un disco e l'ho fatto. Sto per uscire con il nuovo disco che non vi dico come si chiamerà, non vi dico niente, uscirà penso e spero a settembre, oltre ad uscire con un altro singolo come Master Booby, perché l'album uscirà come Adriano Maria e il singolo uscirà come Master Booby, corredato tra l'altro anche da un video. Quindi una persona, due personaggi. Io ho due identità, Master Booby e Adriano Maria. Ehi, roba seria, non come scherza, vuoi, quando scherza, vuoi, scherza, la tua famiglia, siamo noi. Senti, poi c'è stato anche negli anni 90 comunque un tuo album discotecario. Negli anni 90 ho fatto tantissimi mix, dischi mix, all'epoca si chiamavano, perché c'erano i vinili, sì. Uscivo con un'etichetta che si chiamava Digit International, che non c'è più. E sono uscito anche con, sono stato l'unico DJ italiano a avere il permesso ufficiale da Claudio Cecchetto per avere il permesso per fare il remix del Joga Jouer, e l'ho fatto nel 1994, uscito su etichetta Remake Records. Why? Senti, poi è uscita fuori questa, insomma, si è consolidata. Poi mi sono fidanzato e è finita la mia vita. No, scherzo, saluto il mio amore Margherita, che magari... Ciao Margherita! Mi sta ascoltando. C'è un bel coraggio, ciao Margherita. Cioè, ti rendi conto? Guarda che questo è un vulcano. Che è di Reggio Emilia, dove io vivo ormai da anni. E... Sì. E basta. E poi sono qua e tra l'altro questa mattina... Ho concluso la registrazione di alcune parti di chitarra del mio nuovo disco che sono state fatte da un chitarrista che avete in zona, che è un mostro sacro della chitarra, che si chiama Alex Ricci. Grande Alex, lo salutiamo Alex. Lo saluto caramente perché è una gran persona, è un gran professionista e sa suonare veramente da paura. Vabbè, ma sai chi è il papà di Alex? Esatto. E anche il nostro ospite suo fratello, sì, Gian Maria sì, non scherza mica niente con la chitarra. Li salutiamo e li bravissimi. Salutiamo bravi, tutti bravi, e tre bravi. Senti, poi comunque si è creata anche un'amicizia con Lorenzo Giovanotti, ci vuoi dire qualcosa? Ma no, ma guarda, con Lorenzo Giovanotti è una cosa che va avanti, è un'amicizia che va avanti dagli anni 90, dall'epoca in cui registrava a Forlì, ci vedevamo spesso in studio a Forlì e ci vedevamo spesso al di fuori dello studio a Riccione, che lui frequentava spesso, e da quegli anni siamo rimasti sempre in contatto, ogni tanto ci sentiamo, lui è diventato un grandissimo artista internazionale, mondiale, ha fatto un tour di 65 date, una roba del genere penso, ha riempito anche le molecole dell'aria, secondo me, che erano in giro, lui le riempie praticamente. È bravissimo e magari ci sta ascoltando, gli mando un saluto anche a lui. Lo salutiamo anche noi, lo salutiamo. E a tutta la sua band, che li conosco più o meno tutti i ragazzi che sono anche lui, sono bravissimi. Tutto qua. Che poi ti ricordi, lui nacque con il primo programma di Radio DJ, DJ video, Television, dall'Aqua Fan, esatto, dall'Aqua Fan, insieme a Linus, insieme a Linus. Perché praticamente la partenza e lo start iniziale viene proprio dalle radio, e quindi la radio è stata sempre, rimarrà sempre un grande trampolino di lancio. Saluta Tiziana, mi dice Patrizia. Salutiamo Tiziana. Ciao Tiziana. Ciao Tiziana, come stai? Ciao Tiziana, come stai? Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you are hard one. I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy? She'll beat you if she's able. Thank you so much. Stella. scuola stasera. Allora, cari amici, abbiamo uno scoop questa sera. Veramente dobbiamo ringraziare Adriano per l'ospite di questa sera, una graditissima... Un ospite nell'ospite, praticamente. Una graditissima sorpresa. Voi dite, perché c'è un pezzo dei Ridillo? Perché abbiamo in diretta Benji! Ciao Benji! Ciao, ciao! Ciao ragazzi! Ciao Benji! Grazie, grazie! Allora, praticamente Benji sei in diretta su una piccola radio messa su con tanti sacrifici nel mio piccolo paese dove sono nato, insieme a Carlo, che è il director della radio, e insieme a Marco, che gli dà una mano, che sono due vecchie volpi della radiofonia italiana dei tempi 80. Non la considererei neanche piccola. No, beh non... Sai non... perché? Dimmi. Ho avuto tante radio grosse che in realtà non sapevo fare. Ok, allora Benji, cosa ci racconti? Spiega un po' a questi signorini che ci ascoltano su Radio Atri cosa stai combinando, che io lo so a memoria. Vai, vai un po'. Eccomi. Allora, innanzitutto sì, sentiamo. Allora Benji, cosa stai preparando in questo periodo? Cosa bolle in pentola? La pasta, diciamo la, pasta? La pasta, ho cucinato del pollo alle mandorle stasera. Anche il caplet, Benji, ho le troppe keld. Allora, sei sempre in diretta con noi e noi stiamo ascoltando un tuo bellissimo brano del tuo gruppo Figli di una buona stella. E diciamo pure che possiamo dirlo, insomma, i Ridillo sono un gruppo, uno dei pochi gruppi che in Italia fanno del buon funky. C'era stato in passato qualche tentativo, buon tentativo con gli aeroplani italiani. Ci puoi dire qualcosa che aiuta la linea? O no? Eccoci qua. Allora Benji, ci stava chiedendo praticamente Carlo di parlare un po' delle tue avventure con Ridillo e anche con i tuoi altri progetti, così lo facciamo sapere anche a quelli che ci stanno ascoltando. Allora, noi con Ridillo, che ricordo ormai più di 10 album, l'ultimo è uscito a fine marzo, si chiama Pronti Funky Via, e devo dire che sono molto contento perché rispecchia un po' tutto quello che in questi anni abbiamo fatto, cioè nel senso ha un suono veramente Ridillo tutto l'album, dove c'è cose, alcune molto più prodotte, altre suonate quasi live, eccetera eccetera, però è proprio questa la caratteristica di Ridillo, quindi una parte di produzione ben fatta e una parte invece magari di tanta attività live. E infatti, altra cosa, appunto, sto lavorando sempre sui live, sempre con il Ridillo. Siamo abbastanza contenti perché è un bell'anno questo, una bella estate, insomma. Sì, senti, io ti volevo chiedere, il panorama funk in Italia non è poi così affollato, voi siete così una pietra miliare. In passato ci sono stati anche diversi gruppi che hanno fatto del funky, tipo gli aeroplani italiani, insomma, e anche i Dirotta su Cuba. Beh, Dirotta su Cuba hanno rifatto un pochettino il verso, certo, agli Swing Out Sisters. E... sì, anche un po' agli Incognito, eccetera. Guarda, ti dirò, invece sto un po' scoprendo gruppi nuovi che hanno voglia di suonare questa musica live, eccetera, o altre situazioni dove magari sono partite dal rap, ok, e poi si sono accorte, diciamo, da dove preveniva la maggior parte delle basi che erano campionate. Era ora. E quindi le stanno suonando dal vivo. Insomma, mi riferisco a Willy Peyote o altra gente, insomma, di quel mondo lì. E un'altra zona che mi piace è quella del New Soul che sta nascendo, l'italiana, come la Brancale. Vabbè, tra l'altro era due sere fa qui ad Atri, Simona Brancale, praticamente. Serena Brancale, scusa, perché ha fatto un suo un master praticamente. Dopodiché si è fermato, ha fatto anche il concerto, è la prima sera che sono arrivato e me la sono trovata qui in concerto, bam, così diretta, è stato bellissimo. Fantastica. Ascolta Benji, no, tu quindi, no, dicevo, quindi tant'è che faremo una serata a Modena il 7 di settembre, si chiama la serata cosmica, dove ho invitato qualche gruppo, adesso non potevo farne più di due, nel senso che poi se no bisogna fare veramente un festival, ma avremo questi fake jam, giovani ragazzi bolognesi, sì. e i Black Taste, che okay. invece sono, diciamo, di famiglia. Esatto. Ecco, volevo chiederti, c'è un festival in Italia proprio, diciamo così, che si occupa di musica funky, prettamente funky? Ma no, in realtà no, e anzi ti dirò che bisogna aspettare, fa ancora. Sarebbe una bella cosa farlo. L'anno scorso abbiamo fatto una data insieme ai Di Rotta e è stata molto bella, Rimini, per cui quello poteva essere un po' l'inizio. Poi cosa succede? Cominci sempre a dire no, ma ragionare sui cachet, cioè, insomma, è più facile forse creare l'evento. Esatto. Dopodiché ci sono quelli che si qualche accusano, qualche diciamo, tua no? preferenza per i gruppi funky del passato, degli anni 70-80, ci puoi fare qualche nome, qualche gruppo a cui insomma ti... Ma guarda, abbiamo avuto la fortuna di aprire un tour italiano degli Air Wind and Fire. Quindi già quello è una roba seria. Abbiamo avuto la fortuna di aprire una data solo, ma è bastata, a James Brown, e quindi con roba serissima. E abbiamo invece suonato proprio tre date insieme a Umir Deodato, che grande, è il produttore dei Kool & The Gang, di Celebration, esatto. di Ladies Night, tanto per farci capire, cioè è quello che ha creato veramente quel suono lì. Esatto. Quindi devo dire che sotto l'aspetto, diciamo, americano, siamo stati fortunati, hai capito? Senti, tu puoi tracciare adesso una differenza tra la musica soul funk degli anni 70 anche per quanto riguarda la produzione della musica odierna? Sai benissimo che a quei tempi c'erano strumenti analogici, ma batteria, chitarra. Come vedi questo cambiamento, insomma? C'era gente che sapeva suonare veramente, oggi è un pochettino più semplice col computer. Ma guarda, tornando al discorso di Umir, mi ci spiegava proprio che loro non suonavano per niente bene, i Kool & The Gang, e a lui ha dovuto prendere praticamente quattro battute del batterista dritte per poi fare i veri loop, quelli che oggi usiamo, insomma, anche nella musica. Cioè, nel senso che crei un loop e poi lo porti avanti quanto vuoi con il computer. Quindi ti dirò, ci abituiamo noi ad un suono, no? Quindi oggi se sentiamo delle cose un po' storte ci sembrano strane, in realtà allora non ci sembravano strane, non c'era il BPM fisso, la canzone iniziava e ecco, tutto questo secondo me è proprio una questione mentale di abitudini, poi per cui è vero quello che dici, ma proprio perché c'era dietro delle persone che sapevano come lavorarci, come mixarle, come produrle, faceva la differenza, insomma. Va bene, Benji, adesso ti faccio una domanda, ti chiedo una cosa. Io anzi ricordo un appuntamento potentissimo che voi avete già fatto una volta al Blue Note di Milano, nella quale avete anche registrato un doppio album, sì. che è giù di testa. In realtà è la quarta volta che torniamo, quindi abbiamo già fatto. Esatto, tre, esatto. Esatto, io sono un po' impreparato perché sono in vacanza, sono un po' staccato col cervello, quindi perdonami. Però non dimentico la serata di sabato 22 settembre 2018 e io sarò presente perché ci tengo tantissimo. Vogliamo ricordare che Benji è anche un autore, ha affermato, ma insomma, come ha fatto no? diverse cose per la Rai. Tantissime. Sì, mi piace scrivere per altri, delle volte lo trovo molto più facile a scrivere per altri perché hai meno stare mentali, praticamente cosa succede? Se scrivi per te dici ma questa poi come la canterò, la passeranno in radio, se scrivi per altri già questo filtro lo togli ed è immedesimi, così come scrivo molto per la TV, il cinema, situazioni, diciamo, si chiama production music, ovvero musica proprio scritta apposta per sonorizzare pubblicità, TV, cinema, eccetera, insomma. Benji, io ti do fare un'ultima domanda, come si dice, la domanda da mille colpi. Pensi che noi siamo grandi appassionati di musica disco, soul, funk, io, Adriano, mio fratello degli anni 70, insomma conosciamo tanti gruppi, Tom Brown, Funk Machine, tantissimi altri artisti. Pensi è sbagliato definire la musica soul, disco, funky, espressione minore della musica? Di moda? No, come genere musicale, cioè come espressione artistica, nel senso... Obiettivamente c'è stato un momento in cui tutto Black Exploitation, cioè quindi faceva la differenza, oggi si è un po' tutto mischiato, per cui insomma direi che i generi... è bello anche mischiarli e servono più, diciamo, alle playlist oggi come oggi di Spotify o di per catalogare, no? Dove devi andare. Tante volte anch'io stesso quando devo inserire dei brani dici ma questo sarà più così o sarà più così, cioè, è anche sbagliato per forza mettere delle etichette, no? Non trovi? Sì. Sicuramente. Secondo me è giusto quello che hai detto e lo condivido in pieno, perché a me classificazione e classifica non sono mai piaciute. Io faccio sì, per fare il tuo album, esatto, che esatto. Io ho e che mi piace, farei fatica a inserirlo. Esatto. Cioè, nel senso, potrebbe essere una colonna sonora, potrebbe essere. Esatto. Cioè, ed è molto variegato, no? Esatto. Per cui sarebbe sbagliato andarlo a inserire solo, non so, su Easy List. Esatto. O... esatto. Hai capito? Però insomma viviamo in un mondo di etichette, allora dici ok, quella che si avvicina, esatto, di più è questa. Esatto. Va bene Benji, guarda, noi ti salutiamo, grazie per essere intervenuto. Grazie ti ringrazio personalmente. Grazie a voi e complimenti e ti lasciamo con Adriano. Ci ha definito una radio minore, però noi... No, non ho definito una radio minore. Noi sinceramente non ci sentiamo. No. Sì, tecnicamente forse fine, magari la forza di internet secondo me è che qualsiasi, anche cioè con un'idea dentro, con della buona musica dentro, esatto, cioè puoi solo crescere, insomma. Infatti. È vero. Bocca al lupo. Allora adesso il lancio lo faccio io a Carlo, se permetti. Salutiamo Benji, salutiamo Iridillo, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando e guardando e vai con Fancora. D'amore, forse non ti devi mai innamorare, se non vuoi soffrire d'amore, che poi stai male e non capisci perché, se non vuoi soffrire d'amore, tu chiudi il cuore e butta via la chiave, se non vuoi soffrire d'amore, e intanto soffro qui per te. Ma adesso, se torno indietro un po', tu resta qui, che dopo, se tu devi rompere, è meglio se stai lì. Se convertito in energia pulita, che bello sarebbe, se tutto questo odio fosse convertito in energia pulita, farebbe bene alla vita, se non vuoi soffrire d'amore, ma ci ricasco dentro, se non vuoi soffrire da dentro, fa ancora, fa ancora. D'amore. Vai a vivere in un congelatore, se non vuoi soffrire d'amore, però dopo però non usi. soffrir d'amore. Aspetta che sia l'altro a chiamare. Se non vuoi soffrir d'amore, la vita passa senza di te. Un tempo sul ponte pensavo solo a te, ma tu non eri lì. Take me to the bridge. La pepe di sera, non solo a sabato, anche di lunedì. Ma ci ricaschi dentro, se non vuoi soffrir da dentro, fa ancora, fa ancora. Se tutto questo odio non ci fosse più, che bello sarebbe se tutto questo odio non ci fosse più. Ci ricasco dentro, se non vuoi soffrir da dentro, fa ancora, fa ancora. Ci qua di nuovo in diretta su radiocerrano.net. Salutiamo Eros. Ciao Eros. Grande Eros. Eros faceva parte del nostro gruppo. Eros era uno della, era uno della cricca. Era uno della cricca. Esatto, esatto. Salutiamo quando Eros. D'estate tornavano i milanesi, i romani. Ed era una grande festa. Ed era una grande festa. Sempre festa, tutte le sere. Eros era e comunque questo gruppo si è ritrovato su. E quando io e Marco rubavamo il ciao a mia rubavamo il ciao a mia sorella e andavamo a Pineto senza luci. E non solo, ne abbiamo fatte anche di... con l'autostop. Ma lasciamo perdere. Allora, un attimo, ringraziamo Adriano per questo scoop. Insomma, abbiamo avuto Benji, un personaggio molto importante della scena funky italiana. Di nuovo grazie Adriano, è venuta fuori una bellissima intervista. Benji è una grande persona. Veramente di nuovo grazie Adriano, sta venendo veramente fuori una bella trasmissione, molto, molto naturale. E adesso ragazzi salutate tutti gli amici che ci stanno ascoltando su Facebook. Tante salute a Eros Pavone. Saludo, saludo. A Patrizia Smemorex Assogna. Patrizia Smemorex Assogna. Vado, vai. Deborah Colancec. Ma che Deborah? Ah no, Dora, scusa. Ma tu mi cadi sulla, sono un po', sulla mia compagna, sono Dora. Un po', Dora, perdonami Dora, scherzi, perdonami Dora. Dora. Massimo Cosanni dal Belgio ci sta guardando, è incredibile. Emidio Anera dal Belgio ha salutato. Emanuele Pomponi. Grande e vai. Allora, adesso cosa facciamo? Federica Libertini che addirittura scrive bella questa diretta. Beh, Federica, ci siamo noi, non può essere che diversamente, scusami. Ma no, una serata in amicizia, poi... È una serata non provata, tutto così come succedeva per caso, non abbiamo scalette, non abbiamo niente, sì. Ci siamo messi qui sì, e siamo sì. Partiti. Sono le per cose fortuna migliori. La tecnica ci sta assistendo. Sono le cose migliori. Infatti. Allora adesso continuiamo con un brano che ho scelto io. Vediamo Carlo cosa ha scelto. E vediamo un po', senti un po' Adriano cosa ti ho preparato. Dai, senti questa cosa è molto bella, dai. My bone and voices ringing in my head. Eccoci allora, qua di nuovo. Sì, allora Adriano, cosa ne pensi di questo brano? È un po' titubante, mi ha fatto sentire una cosa molto molto rilassante, molto bello, un R&B molto fatto bene. Bravo Carlo, hai fatto un'ottima scelta, se no ti davo le bacchettate sulle mani come facevano a scuola, Carlo. Adesso niente, io volevo cogliere l'occasione per far sentire un pezzo del mio ultimo CD, del mio ultimo lavoro che ho fatto, che si chiama Quasi Jazz. Per l'occasione, praticamente prima che Carlo lanci il pezzo, volevo ringraziare un po' di persone che mi hanno accolto nel mondo, diciamo, dei grandi musicisti che ruotano a Reggio Emilia, perché Reggio Emilia è una città dove ci sono tantissimi musicisti bravissimi che suona con degli artisti giganteschi. E volevo ringraziare in primis il mio maestro Massimo Mussini, detto il Musso, il quale praticamente mi sta insegnando l'arte della chitarra, e tuttora dopo 4 anni vado ancora a scuola da lui. Volevo salutare un altro chitarrista che si chiama Angelo Fauli, che ha fatto delle parti di chitarra nel mio nuovo disco. È un chitarrista funky eccezionale che ha girato mezzo mondo e militava in Italia in una formazione che si chiamava Funky Company, dove la parte chi cantava era Jenny B, non so se ve la ricordate, ha fatto anche Sanremo, eccetera. Sì. Volevo ringraziare un'altra persona fantastica ed eccezionale che mi ha dato una grossa mano a realizzare le parti di batterie e di percussioni dell'album che sarà in uscita a settembre, che è Alessandro Lugli. Andate a cercarlo su internet, è praticamente il batterista che sta facendo il tour mondiale con Mario Biondi, e penso che sia uno dei primi 5 batteristi più preparati in Italia, oltre a essere una persona che è veramente eccezionale, umana, ci puoi parlare, ci vai a cena insieme indipendentemente dalla musica. E un altro personaggio fortissimo che mi ha dato un aiuto a livello questa volta con lo strumento col basso è Paolo De Rico, meglio conosciuto come Paul Derrick, il mitico bassista di Ridillo, che ha suonato le linee di basso che io ho scritto per il mio nuovo disco. Poi vabbè, Alex Ricci l'abbiamo già ringraziato. Un'altra persona che ha partecipato al mio disco è Chicco Montefiori dei Montefiori Cocktail, tutti sax. I Montefiori Cocktail sono stati inseriti diverse volte. Esatto. Sono compilation. Esatto. Chicco Montefiori, sì. E in particolare Chicco Montefiori, che fa tutte le parti di sax nei miei dischi, che è anche lui una persona fantastica ed eccezionale. E, oltre ad essere un professionista, dove ce ne sono, che se ne incontrano pochi come lui. C'è molta gente che fa il giro del mondo per trovare gente per suonare, però secondo me non c'è bisogno, perché l'Italia pullula di artisti veramente giganteschi che suonano ad un livello altissimo, e secondo me bisognerebbe farli suonare di più nelle produzioni, senza andare alla ricerca dello straniero per avere il nome sul disco straniero, eccetera eccetera. Ma questa qui non voglio entrare in polemica, è una trasmissione molto rilassata, quindi se posso preferisco scegliere musicisti italiani. Allora ascoltiamo Quasi Jazz di Adriano, e vi lascio con Quasi Jazz, che è la traccia 10 del mio nuovo album 02550. Thank you. Eccoci qui ancora in diretta per qualche minuto. Chiedo scusa a Jacopo Moschetto, tastierista, jazzista incredibile, che è un'altra persona che partecipa sempre ai miei progetti musicali. Mi ero dimenticato prima quando ho salutato tutti i musicisti. E Jacopino è veramente un genio. Tra l'altro ci dobbiamo vedere il 3 quando io torno a casa, cioè tra qualche giorno, per finire di registrare le parti di tastiere, di synth, di pianoforti e di organi. Adesso niente, innanzitutto adesso parto io con i saluti. Volevo ringraziare in primis Carlo Micheli alla regia, eccolo qua. Ciao Carlo, che mi ha ospitato a Radio Cerrano. È stato veramente un grande piacere. A Radio Cerrano. Volevo salutare Marco, che abbiamo passato veramente anni insieme a far cazzate dalla mattina alla sera, ma anche cose belle, e ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti, esattamente, veramente. Io ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, che ci avete seguito nella diretta video, e vi lascio con un ultimo pezzo che io amo particolarmente, ma oltre ad amarlo io particolarmente, lo ama anche la mia compagna che si chiama Margherita, a cui dedico questo pezzo con tanto amore. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Ciao a tutti, ciao, ciao! Escala zero a dez eu te dou 100, e 100 parece pouco pra você, mas de 1 milhão de corações eu quero 1, e o seu é o bastante pra eu viver. Deixa eu te levar pra ver as flores colorir nosso jardim de amor, enquanto o céu vai misturando as cores, a gente ama até o sol se desejo é desejar você. É você, só você, que sabe me fazer feliz, que chega em meu ouvido e diz: o meu desejo é desejar você. Numa escala 0 a 10 eu te dou 100, e 100 parece pouco pra você, mais de 1 milhão de corações eu quero 1, o seu é o bastante pra eu viver. Deixa eu te levar pra ver as flores colorir nosso jardim de amor, enquanto o céu vai misturando as cores, a gente ama até o sol se pôr. Mãozinha no céu assim, vai, todo mundo. Fazer feliz, que chegue em meu ouvido e diz: o meu desejo é desejar você. É você, só você, que sabe me fazer feliz, que chegue em meu ouvido e diz: que o meu desejo é desejar você. De amor, enquanto o céu vai misturando cores, a gente ama até o sol se pôr. É você, só você, que sabe me fazer feliz, que chega em meu ouvido e diz que o meu desejo é desejar você. Já deseja você, você, que o meu desejo é desejar você, é desejar você. Tchau a tutti. Salutiamo ciao. Tutti gli amici di Radio Cerrano Web. Alla prossima con... Radio Cerrano Web in the house. Ciao a tutti ragazzi. Radio Cerrano Web in the world. In the Aran world.